ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Dieci minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, ancora in voce. E questa è l'ora di buco, lavoratori e lavoratrici della scuola parlano di scuola. Hey! Hey! Hey! A qualche cosa devi può rinunciare. 06 49 17 50, se volete intervenire in diretta. Ora di buco, @ondarossa.info se volete scriverci. Non fare la vittima se ti devi sacrificare. Versione ampiamente ridotta della redazione dell'ora di buco quest'oggi, ma insomma cercheremo di fare del nostro meglio. Parleremo prioritariamente dell'ora di religione, che è un argomento che ci sta molto a cuore. Ma prima di parlare dell'ora di religione vorremmo un po' aggiornare, anche senza entrare troppo in profondità perché è una questione, una materia molto complessa, volevamo un po' aggiornare la situazione relativa al reclutamento, così in genere il Ministero le chiama, dei nuovi insegnanti nelle scuole di tutti gli ordini. Ovviamente stiamo parlando della scuola statale, insomma dalla materna alle superiori. Questo perché Orizzonte Scuola ci ha dato notizia di un incontro della delegazione degli studenti e le studentesse del TFA, cioè del tirocinio formativo attivo, corso a pagamento con cui ora si ottiene l'abilitazione, una delegazione appunto del TFA con il ministro con la ministra per capire quello che sarà di loro, perché su questo andremo un po' a vedere. Quello che se ne deduce, insomma, da questo articolo di Orizzonte Scuola è che il Ministero non è ancora pago del caos che esiste per l'immissione in ruolo, anche per l'accesso ai posti da precari e precarie nella scuola, perché la Ministra ha annunciato due cose. Uno, che sta per uscire il bando per un nuovo ciclo di TFA. Due, che hanno iniziato l'iter per un nuovo concorso. Ora bisogna un po' cercare di ricostruire qual è la situazione in questo momento. E quindi abbiamo al telefono una compagna che si è trovata, come dire, nella situazione in cui molti e molte si sono trovate, cioè a dover accedere a questi unici strumenti che vengono proposti dal Ministero per poter diventare insegnanti, cioè il TFA da una parte e il concorso dall'altra. Pronto, ci senti? Ciao. Ciao. Ci vuoi ricordare qual è stato il percorso di chi ha fatto il TFA e poi ci racconti qual è oggi la vostra situazione? Dunque, il percorso è stato questo: noi abbiamo fatto tutti, varie migliaia di persone, varie decine di migliaia di persone, una prova quiz l'estate 2012. Quindi poi, un anno e mezzo fa, una prova quiz per avere accesso al TFA. Per avere accesso alla prova scritta, cioè la prova quiz serviva a scremare evidentemente i candidati, perché erano veramente moltissimi, ovviamente, dato che non c'era nulla da anni, quindi si erano presentate veramente migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, perché era su base regionale il TSA. Dopodiché, tra l'altro, questa prova quiz è stata molto contestata perché sono stati rilevati vari errori nella compilazione delle domande, eccetera. Dopo un'estate appunto di fuoco ci sono state le prove scritte, successivamente delle prove orali, e a quel punto sono stati selezionati per ogni regione alcune decine di persone per ogni classe di concorso, per cui erano stati banditi i posti, non tutte perché alcune classi erano rimaste ovviamente scoperte, ad esempio quelle di lingue, eccetera. Dopodiché la prima edizione del TFA è stata, almeno qui in Toscana, insomma in alcune zone, per alcuni atenei, un po' diciamo, fortunosa, perché noi abbiamo pagato circa 2.200 euro di tasse a testa più quella di iscrizione. Senza riduzione in base al reddito? Senza nulla, senza riduzione in base al reddito, senza borse di studio. Il TFA si svolgeva in genere in una città per regione, cioè ogni classe di concorso aveva la sua sede, per cui c'era necessità per molti di spostarsi per andare a frequentare i corsi. I corsi in genere, non dappertutto, però sono iniziati, appunto essendo la prima edizione, molto in ritardo, sono stati compressi in pochi mesi, con poi anche qualche sconto fortunatamente quando si è trattato di fare tutti i conteggi delle frequenze, eccetera, però è stata insomma un'edizione un po' abberciata, diciamo così. Che si è conclusa con un esame finale abilitante. Dopodiché, abilitante e basta, cioè voi avete fatto questo anno di formazione attiva, come la chiama il Ministero, sì. E avete ottenuto di essere abilitati. Sì, sì, sì. Però il problema che si è aperto e a cui non è stata data risposta è stato quello della immissione nelle graduatorie, nel senso che per il momento noi abilitati, per esempio per storia e filosofia in Toscana siamo una trentina, non siamo stati inclusi in nessuna lista, nonostante alcune promesse della ministra. È probabile, ma non si sa ancora, che queste appunto le graduatorie si riaprano a maggio, e quindi a maggio diciamo si decidano i destini dei nuovi abilitati, appunto, cioè se entreranno nelle graduatorie o meno e in quali graduatorie entreranno, insomma con quali prospettive, ecco. Però per il momento non c'è nessun tipo di certezza, insomma, su questi temi. Senti, tu hai un'idea di che numeri stiamo parlando? Cioè a livello nazionale quanti sono questi nuovi e nuove abilitati, abilitate? Io non ho idea, io penso siano intorno ai 10.000, però non sono assolutamente sicura, insomma, non ho dati certi. E queste abilitati a voi, insomma, ancora oggi, nonostante siano passati diversi mesi, non si sa se verrete inclusi nelle graduatorie di istituto, sostanzialmente. Perché esattamente. In quella esaurimento sicuramente no. Questo, No, lì ci vogliono i 24 mesi di servizio, quindi a meno che qualcuno non li abbia. In più, voglio dire, il Ministero ha complicato la questione, perché poi dopo di voi ha introdotto il TFA speciale, che è ancora un'altra categoria che viene creata. Sì, il TFA speciale è stato aperto, appunto, è stato la prima edizione, dovrebbe partire ora, insomma i bandi credo siano stati chiusi o siano in corso di chiusura, diciamo così, e riguarda le persone che hanno già fatto 3 anni, anche non consecutivi, di precariato nella scuola. E queste persone hanno potuto accedere a questo, appunto, questo nuovo ciclo, senza fare un esame iniziale. Questa è stata, diciamo, la facilitazione che è stata inserita, insomma, per questa categoria di precari. E senti, tu hai fatto anche il concorso, fra l'altro, concorso che ancora oggi non ha portato a nessuna assunzione, perché credo siano finite le prove in tutta Italia a questo punto, ma non da molto. In realtà sono finite, almeno qui a Roma, credo che siano finite a settembre-ottobre, e credo anche in Toscana, fra l'altro, ma ancora non si sa bene quante persone verranno assunte, quanto, eccetera eccetera, anche per quanto riguarda il concorso. In tutto questo, dicevamo in apertura, il Ministero parla di un nuovo concorso e di un nuovo TFA. Ti chiedo solo una tua conclusione su questo. È molto, insomma, è tutto molto complicato, insomma, perché se non ci sono, cioè, se non c'è un quadro chiaro, se non ci sono certezze, e soprattutto se non c'è un progetto organico di assunzioni, insomma, di ripensamento anche del reclutamento nella scuola, tutto resta poi rischia di diventare, di alimentare delle speranze così campate un po' in aria, insomma, quindi rendere sempre più complicata la situazione dei precari invece di sbrogliare la matassa. Ma tu hai l'impressione che, insomma, siate anche un po' una gallina dalle uova d'oro, perché questi TFA, insomma, hanno portato diversi quattrini alle università, no? Penso di sì, cioè penso che il TFA il TFA dovrebbe in realtà concentrarsi soprattutto sul tirocinio nelle scuole, quindi la parte anche della didattica nelle università è molto più semplice, molto più meno impegnativa rispetto poi a quello che sono state le SIS. Però insomma le tasse sono alte e quindi le università hanno sicuramente un grosso vantaggio, insomma, partecipare a questa operazione. Va bene, se non vuoi aggiungere altro, noi ti ringraziamo e cercheremo, insomma, sempre di tenere aggiornate chi ascolta questa trasmissione sulla situazione di chi cerca di iniziare a lavorare o di rendere il proprio lavoro precario stabile nella scuola. Ciao, un saluto a tutte e a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré crash et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. La corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. 16:23, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e passiamo a un altro argomento, per quanto non nuovissimo da questa trasmissione, ma irrilevante. Perché riguarda l'insegnamento della religione cattolica, che è una spina nel fianco che ci fa male sempre. Quest'anno, no, come anche l'anno scorso, è uscita la circolare per le iscrizioni con la novità che le iscrizioni vanno fatte online e ovviamente in qualsiasi ordine di scuola, perché anche per la scuola dell'infanzia è prevista l'iscrizione online. Apriamo una parentesi, l'anno scorso ci sono stati moltissimi problemi, per esempio non era previsto, se ricordo, il solo genitore, insomma tutte cose che poi sono state sistemate. Rimane certamente il problema che non si può pensare che insomma tutti siano e tutte informatizzati a perfezione, per cui anche quello che chi ha dimestichezza col computer può trovare semplice come compilare un modello online, magari per certe persone può diventare complicato. E del resto poi le iscrizioni venivano comunque da diversi anni messe in rete per evitare le doppie iscrizioni, quindi già un controllo in questo senso c'era. E allora da qualche anno però le scuole non possono mettere possono, quando si compila questo modello, scusate, online, si dichiara immediatamente se si vuole ci si vuole avvalere, come si dice, o non avvalere dell'insegnamento della religione cattolica. E questo perché ovviamente poi bisogna formare gli organici, sapere quanti docenti di religione dovranno essere poi indicati in base appunto alle classi dal vicariato. E, è vero anche che forse non tutti e tutte sanno che basta anche un solo alunno che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica perché quella sia una classe assegnata. E la religione è prevista per un'ora a settimana, per cui insomma non sul numero quindi degli alunni, che invece è stata una cosa molto molto strombazzata in questi ultimi anni, cioè sul fatto si è aumentato il numero degli alunni per classe, si sono per esempio tolte le classi bilingue e sono andate a esaurimento, non è più possibile formare le classi bilingue dal primo anno, però la religione cattolica rimane invece quest'isola felice, almeno per la Chiesa e per chi fa questo lavoro, per cui appunto si può avere un numero basso di alunni e conservare lo stesso le classi, e ogni classe garantisce appunto un'ora fino al completamento della cattedra, che è di 18 ore settimanali. E all'interno di questo, dicevo, nella compilazione del modello online di iscrizione è previsto appunto la dichiarazione se avvalersi o non avvalersi. E la circolare che è stata emanata quest'anno e da qualche anno su insistenza e pressione appunto della Chiesa si è fatto così, nella circolare si può indicare soltanto questo, non si può decidere che cosa fare eventualmente in alternativa all'insegnamento della religione cattolica. Le scuole, diciamo, decidono abbastanza autonomamente, le possibilità sono però attività didattiche e formative extracurricolari, come si dice, cioè non possono essere materie che già sono in quell'ordine di studi, oppure lo studio individuale, cioè si mettono sti ragazzi tutti in un posto, fanno un po' quello che gli pare e qualcuno sorveglia, oppure possono farlo senza nessuna sorveglianza, assistenza si chiama eufemisticamente, però ovviamente solo per gli studenti degli istituti superiori, oppure non c'è proprio la frequenza, il che diciamo può portare, se l'orario lo prevede, a entrare un'ora dopo o a uscire un'ora prima. All'interno della circolare quest'anno, anche se è ribadita, la circolare è la 28 del Ministero dell'Istruzione, anche se è ribadito a chiare lettere che questa scelta di che cosa fare se non si fa religione si fa all'inizio dell'anno scolastico, però è stato inserito un allegato, la scheda C, il modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, dove sono state insomma illustrate le possibilità che vi ho detto prima e sulle quali appunto la scuola può decidere. Ci sono molte scuole che non fanno l'attività come si chiama normalmente alternativa alla religione. Beh, alla Chiesa non gli va bene nemmeno così, cioè vorrebbe praticamente che non fosse nemmeno citato probabilmente il fatto che ci si può anche non avvalere dell'insegnamento della religione cattolica. E questo poi, una volta fatta questa scelta, non si può più cambiare, ma questo è anche comprensibile, per tutto l'anno scolastico, e in mancanza di una dichiarazione diciamo contraria rimane poi per tutto il corso di studi. Dicevo che però alla Chiesa questo non va bene, perché avendo fatto pressione appunto perché questa scelta poi di che cosa fare al posto di religione fosse fatta all'inizio dell'anno, ha avuto da ridire, e tramite il suo organo ufficiale che è il quotidiano Avvenire, ha avuto da ridire perché all'interno della circolare c'era anche questo modello. Allora non è pensabile per esempio che il Ministero dell'Istruzione, pur così attento alle esigenze della Chiesa, su questo insomma penso che nessuno mi possa smentire, e facesse poi una seconda circolare all'inizio dell'anno per ricordare quali erano le possibilità per questi ragazzi e queste ragazze, questi bambini e queste bambine. Qui mi piange il cuore. Il problema è che la Chiesa sa bene quello che fa, perché vedendolo dall'interno delle scuole, se tu a gennaio, quando arrivi a iscrivere soprattutto i bambini, insomma quelli più, o i ragazzi più giovani, insomma, gli dici soltanto puoi avvalerti o non puoi avvalerti, decidi qua. Molti genitori dicono vabbè, ma meglio che stiano nei corridoi a non fare niente, è meglio che facciano religione. E se invece già a gennaio gli dici guarda che se non fanno religione può uscire prima, può entrare dopo, può fare un corso di un'altra materia, musica, che ne so, di archeologia, di quello, di che economia, magari... abbiamo visto varie cose, certo. Allora è più probabile che il genitore firmi per non avvalersi. La Chiesa questo lo sa, perché non è che proprio ci sia entusiasmo intorno all'ora di religione, ecco. No, anche perché per esempio una cosa che ho notato quando i miei figli andavano alle elementari e non hanno mai fatto religione, scemava, e che siccome l'età della comunione si è spostata in avanti rispetto a parecchi anni fa, molte persone anche diciamo religiose, vabbè, ma qui sarebbe da aprire un altro capitolo, dicevano vabbè, già fa 2 ore di catechismo in parrocchia, io non gli faccio fare religione. E dicevo che nemmeno appunto questa modalità va bene, e perché noi lo intuiamo, no? Perché appunto, come dicevi, se io so che cosa posso fare in alternativa, magari è una spinta in più su già diciamo un entusiasmo che è abbastanza basso. E allora il 30 gennaio l'Avvenire fa un articolo, scuola, strana confusione sull'ora di religione, è brevissimo, quindi insomma ve lo leggo perché è molto illuminante. A pochi giorni dall'avvio delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico ancora non c'è chiarezza sull'insegnamento della religione cattolica, il ministero intervenga più presto per evitare ulteriore confusione con inevitabili ricadute negative sugli studenti e le loro famiglie. A lanciare l'allarme addirittura è Nicola Incampo, responsabile dell'area insegnamento religione cattolica del sito culturacattolica.it, che contesta un passaggio dell'allegato tecnico alla circolare 28 del 10 gennaio emessa dal ministero. Contraddicendo la stessa circolare firmata dal direttore generale del Dipartimento per l'Istruzione, che sul punto era chiara, l'allegato tecnico inserisce tra i contenuti del modulo di iscrizione sia il modello per la scelta dell'insegnamento della religione cattolica, sia quello per le attività alternative riservato a non avvalentesi. In questo modo, contesta Nicola Incampo, si mette sullo stesso piano la facoltà di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e la scelta dell'attività alternativa che la norma pone su piani diversi. E anche qui che la norma lo ponga su piani diversi è da vedere. È da vedere, perché cioè era così in effetti, sì, in passato, poi ci sono state lo so, sto microfono casca. E aspetta un attimino però, perché viene ai tuoi principi piccola brodo, i tuoi diritti senza ragione e la facciata tenuta a modo. Il la sacra rota, la verginità, l'astinenza devota, le donazioni fatte dai penitenti e i più pietosi veri, palati sui conventi. La tua censura, la religione di Stato, dal codice rocco... Verso... Scusate l'interruzione, ma si sentiva un rumore, credo, fastidioso. Perché in effetti non era così in passato, ci sono state tutte le questioni, se ricordi, sul consiglio di classe, quello di religione, quello alternativa, sui crediti addirittura alla maturità, per chi non è addentro sono dei punti in più che vengono dati in base alla media e in base a delle attività. Però io ricordo, poi c'è una sentenza della Corte Costituzionale molto ampia del 2010, la quale specifica in ogni sua pagina che devono, queste due materie devono essere considerate uguali. E infatti, e invece questo dice che la norma le pone su piani diversi. Come correttamente continua l'articolo riportato, cioè la dichiarazione di questo Nicola Incampo, come correttamente riportato dalla circolare 28 del 10 gennaio, il modulo sulla scelta dell'ora di religione va compilato al momento dell'iscrizione, mentre quello per le attività alternative deve essere compilato soltanto dagli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio del nuovo anno scolastico. Può sembrare una questione di poco conto, ma così non è, precisa in campo. Dare in contemporanea i due moduli, sturatevi le orecchie, questo lo dico io, no, in campo, potrebbe generare gravi anomalie, quali per esempio la formazione di classe intere di non avvalenti, sì, oppure la collocazione dell'ora di religione alla prima e all'ultima ora di lezione con un inevitabile svilimento della materia. Non si capisce. Allora adesso tutti i docenti e le docenti che ci stanno ascoltando e che hanno delle, ovviamente, perché non è che entrano tutti alla seconda ora, hanno la loro materia in alcuni giorni alla prima o l'ultima ora, l'ultima ora lo sappiamo che è una tragedia perché non ti segue nessuno, ma insomma ci dicano se pensano che la loro materia sia svilita. Gli studenti a questo punto sarebbero tentati di non avvalersi anche solo per saltare un'ora di scuola, chiuse virgolette. L'urgenza di una correzione di rotta invocata da Incampo deriva dal fatto che proprio in questi giorni le scuole stanno procedendo alla personalizzazione del modulo di iscrizione, la cui base è però costituita dal modello indicato dall'allegato tecnico predisposto dal Ministero. Alcuni insegnanti, conclude Incampo, hanno denunciato che nelle loro scuole si vuole procedere con la compilazione dei due moduli in contemporanea. Per questo il MIUR deve intervenire con celerità per evitare disagi alle scuole e alle famiglie. Qui ci sarebbe proprio da parlare per un'ora, già i disagi non ho capito, anzi se ti do un'informazione in più hai meno disagi, no? Non, ma il disagio è loro, no? Il disagio, nel senso, è solo loro. C'era uno parecchio famoso e diceva religione oppio dei popoli, e qui insomma si torna sempre lì, nel senso che quello che vuole la Chiesa Cattolica, la Chiesa, anzi la Conferenza Episcopale Italiana, è che gli utenti delle scuole, cioè cittadini e cittadine che hanno figli e figlie, non siano ben informate, in modo che non scelgano in maniera consapevole, ma si affidino così a quello che è sempre stato, senza niente di nuovo. Ascolterei un breve... No, aspetta, volevo finire. Cioè, è evidente, è molto smaccato, infatti, cioè, giova ribadirlo, è molto smaccato, smaccata l'intenzione, la volontà e il significato di questa nota, no? Cioè, tenere la gente nell'ignoranza, tenere la gente all'oscuro, fargli credere qualche cosa che non è, perché nessuna scuola darà mai questo modello insieme a quello, diciamo, dell'iscrizione dove dichiari solo se vuoi fare o non fare religione, perché nella circolare è espressamente detto che va consegnato all'inizio dell'anno scolastico. Però è evidente che, si diceva la Chiesa oscurantista, no? Direi che è proprio così, oscurantista nel senso letterale del termine, proprio perché tu non devi sapere, perché se tu sapessi che puoi fare queste attività o entrare un'ora dopo, uscire un'ora prima, magari, ma voglio capire, cioè, stiamo parlando di dementi, di gente così come piacerebbe a loro, insomma, di persone che riteniamo sensate e che possano fare un ragionamento. Perché uno dovrebbe, no, essere ingannato da un'informazione in più? È questa la follia, no? No, ma infatti io mi ci sono anche trovata in questa situazione, cioè nel senso che in un collegio docenti di cui ho fatto parte, in una scuola in cui lavoravo, c'erano quattro corsi di ora alternativa diversi, e non sapendo di questa norma specifica, in collegio docenti chiedemmo alla dirigente di poterli rendere pubblici fin da gennaio, in modo che qualcuno poteva dire sì, mi interessa particolarmente il corso di diritto e quindi non mi avvalgo, così poi mi iscrivo a quello. No, non mi interessa il corso di giardinaggio e quindi mi avvalgo. No, ci sembrava che potesse essere una cosa nell'ottica della trasparenza, dell'informazione, eccetera. E invece no, questo non si può fare e non si fa effettivamente. Questo è ancora un passo in più, non si può nemmeno dire che esiste la possibilità di altro. Insomma, questo, guardate, non è una cosa da poco, insomma, bisogna rifletterci tanto. Evidentemente il problema qual è? Che poi i genitori vanno a leggersi la circolare perché è pubblica sul sito e quella cosa la vedono, quindi la CEI vuole che, la conferenza episcopale vuole che venga proprio tolta assolutamente. È questo, diciamo, l'intento di questa uscita. Botteghe, i preti sono mercanti, vendono madone e santi per farsi gran signor. Popolo 2, ti uccidono con l'onda. Tra cani che abbaiano sopra un triciclo sospinto da un uomo arrabbiato con l'onda assassina, per le vie di Milano da Brera al Castello, ogni passo carraio, vernice, pennello, contro l'onda che uccide. È la chiesa che li fa abbaiare, è la chiesa che li fa abbaiare, è la chiesa che li fa abbaiare. La chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda. La chiesa ti uccide con l'onda. È la chiesa che li fa abbaiare. Tra i cani e quest'uomo lasciano il segno, scrivono profezie come carta le nostre vie. Tra i cani e CT intorno al castello avvisano i nostri cervelli solo con vernice e pennelli. È la chiesa che li fa abbaiare. È la chiesa che li fa abbaiare. La chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda. È la chiesa che li fa abbaiare. Esistono impianti a onde che torturano, rovinano e uccidono da lontano. Uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa ti uccide con l'onda, la chiesa. Chiederete il perché di questa musica così dolce che concilia il sonno in questa giornata di pioggia, in realtà perché quello che andiamo a leggere adesso è qualcosa che ci fa capire molto bene l'assurdità dell'insegnamento della religione cattolica, al di là della libertà di ognuno, insomma, di credere a quello che vuole. Ed è il messaggio della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, quindi la CEI, in vista della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nell'anno scolastico 2014-2015. Qui ci deve essere un errore. No, no, non è un errore, perché è del 23, si portano avanti, è quello che non ce la faremo mai, stanno sempre più avanti. Perché non hanno mai avuto da lavorare, molto anche banalmente. Anche quello. Allora, significa anche che insomma c'è una certa difficoltà, non è facile reperire i dati nemmeno dentro la propria scuola, perché sono tenuti molto segreti, ma insomma la sensazione è ci sia un calo. Cari studenti e cari genitori, anche quest'anno sarete chiamati a decidere se avvalervi o non avvalervi dell'insegnamento della religione cattolica. Si tratta di un servizio educativo che la Chiesa offre alla scuola italiana, in conformità a quanto stabilito dall'accordo del 18 febbraio 84, che era sempre a febbraio, se porcate le fanno anche i patti lateranensi con Mussolini, invece questo era il governo Craxi. L'accordo che ha modificato il concordato lateranense e dalle intese attuative che negli anni si sono succedute. Nel quadro delle finalità della scuola, cioè aderendo agli scopi educativi che motivano l'esistenza delle scuole di ogni ordine e grado in Italia, l'insegnamento della religione cattolica consente a tutti, a prescindere dal proprio credo religioso, di comprendere la cultura in cui oggi viviamo in Italia, così profondamente intrisa di valori e di testimonianze cristiane. Quindi quelli che non hanno un credo religioso non sono proprio contemplati, anche se sono ambiti, perché ovviamente fanno numero. Parlando a un gruppo di studenti, Papa Francesco ha ricordato che la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere, per diventare uomini e donne, adulti e maturi, eccetera, eccetera, eccetera. Come vi aiuta a crescere la scuola? Vi aiuta non solo nello sviluppare la vostra intelligenza, ma per una formazione integrale di tutte le componenti della vostra personalità. Sulla scia di queste parole, la Chiesa in Italia vuole ribadire il proprio impegno e la propria passione per la scuola. Quest'anno, e lo farà anche in maniera pubblica, con un grande pomeriggio di festa e di incontro con il Papa in Piazza San Pietro il prossimo 10 maggio, a cui sono invitati. Su questo poi due parole le diremo. Allora, per rendere tale servizio sempre più qualificato e adeguato alla realtà scolastica, no, scusate, ho saltato un pezzo che invece è importante. Riprendendo le parole del Papa, riteniamo che sia necessaria una formazione completa della persona, che dunque non trascuri la dimensione religiosa. Non si potrebbero capire altrimenti tanti fenomeni storici, letterari e artistici, ma soprattutto non si potrebbe capire la motivazione profonda che spinge tante persone a condurre la propria vita in nome dei principi e dei valori annunciati 2000 anni fa da Gesù di Nazareth. Sì, e la prima cosa che dicono è falsa, perché non è insegnamento di storia delle religioni o di storia della religione cattolica, è dottrina cattolica quello che si insegna a scuola, e loro su questo ci giocano moltissimo. Certo, è per questo che vogliamo ancora una volta invitare ogni studente, ogni genitore a guardare con fiducia e con simpatia al servizio educativo offerto dall'insegnamento della religione cattolica. Fra l'altro, non si capisce perché questi fenomeni storici, letterari, artistici, eccetera, eccetera, non li può spiegare un docente di qualsiasi. Di storia, di filosofia. Ma anche di matematica, perché matematica, se poi certo, se la inserisci, no, in un discorso anche storico, è pure più interessante. Per rendere tale servizio sempre più qualificato e adeguato alla realtà scolastica, con l'intesa stipulata nel 2012 dalla CEI e il Ministero, sono stati fissati livelli sempre più elevati di formazione accademica degli insegnanti di religione cattolica, almeno pari a quelli di tutti gli altri insegnanti e spesso anche superiori. Come ti permetti di dire una cosa del genere? Sono formazioni su cui non c'è alcun controllo. Perché, per esempio, io ho anche un foglietto che dice come fare per insegnare religione cattolica. Beh, la risposta è facile, devi stare nella manica del vescovo, perché se non si capisce... Non è che c'è un concorso. Poi per esempio nella scuola dell'infanzia devi avere il diploma magistrale e poi aver fatto comunque un corso. Sì, però questo è tutto bontà loro, perché certo, in realtà è concordato, certo, è solo che il vescovo indica chi sì, sono. Sì, poi non si capisce, certo, non è che ci va chiunque, no? Devi no, avere un titolo di studio, però diciamo non c'è assolutamente un controllo, tranne che per esempio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado c'hai un diploma di scuola superiore e poi c'hai il cosiddetto baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche che io non saprei proprio dire, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede, oppure puoi avere una laurea e poi però devi fare un diploma in scienze religiose. Ma tutto questo prima di tutto sfugge al controllo, perché non sì, è vero che queste università ecclesiastiche insomma poi hanno anche corsi di laurea, per esempio in psicologia c'è la Maria Assunta a Roma, ma Dio ci guardi, ci sa proprio questa cosa. Però insomma quello che ribadiamo è che non, lo Stato non ha assolutamente nessun tipo di controllo. Questi qui sono passati di ruolo negli anni, arrivano, se prendono lo stipendio, si è calcolato che tutta questa bella storia costa 1,7 miliardi allo Stato italiano, hanno la progressione di carriera mentre i precari non ce l'hanno, e insomma tutte queste belle cose. In più la CEI ci dice che spesso anche superiore ai docenti, che qui ci vorrebbe proprio una sollevazione generale, ma si abusa pure di questo termine, quindi lasciamo perdere. Ringraziamo questi insegnanti, continua, oggi in gran parte laici, che con la loro passione educativa testimoniano nella scuola il valore della cultura religiosa, attraverso il cui servizio cerchiamo di venire incontro alle esigenze più autentiche degli alunni alla loro ricerca di una valida guida. Quindi non c'è niente da fare, la valida guida la dà solo la Chiesa. Poi parla, vabbè, fa altre amenità. Nella fase storica che attualmente stiamo vivendo, il contributo dell'insegnamento della religione cattolica può essere determinante per favorire la crescita equilibrata delle future generazioni e l'apertura culturale a tutte le manifestazioni dello spirito umano. Infatti, con questi sentimenti e confortati dall'elevata adesione fino ad oggi registrata, vi rinnoviamo l'invito a scegliere l'insegnamento della religione cattolica per completare e sostenere la vostra formazione umana e culturale. A parte che è uno spot pubblicitario, insomma, diciamolo proprio con chiarezza, ma al di là di questo è qualcosa che è di una violenza inaudita, ma insomma pure di questo non è ovviamente che ci stupiamo. Fra l'altro, quando leggevo i requisiti, no, così, cioè vi parlavo dei requisiti così sommariamente, e quali sono per poter insegnare religione cattolica? Ci sono quelli generali: retta fede, condotta coerente, abilità pedagogica, certificati dell'idoneità rilasciati dall'ordinario diocesano. Insomma, per cui che succede? Che se per qualche motivo, ed è successo, un insegnante di religione cattolica divorzia, vive more uxorio, c'ha un figlio fuori dal matrimonio, è successo che venga poi lasciato in mezzo alla strada. Al che devo dire che sinceramente a me, personalmente, sono cattiva, non me ne frega niente. Assolutamente neanche a me. Successe anni fa che una insegnante di religione cattolica, per dubbia moralità, insomma, ovviamente nell'ottica della Chiesa cattolica, non ricordo se ha avuto un bambino fuori dal matrimonio o qualcosa del genere, fu dall'oggi al domani e fece ricorso, e lo Stato rispose che era, la legge diceva che l'ultima parola sulla sua idoneità la doveva dare. E questo non si può volere tutto, cioè nel senso, cioè si può volere tutto perché noi vogliamo tutto, ma dal loro punto di vista in questo caso no, nel senso che queste persone che insegnano la religione cattolica usufruiscono di un assoluto privilegio, cioè quello che, siccome conoscono il vescovo, il prete, fanno parte di quell'associazione o di quell'altra, entrano nella scuola statale italiana senza nessuna formazione specifica, senza concorso, senza precariato, eccetera eccetera, e poi per tutto sta appunto in questo gioco tra Chiesa cattolica e Stato. Poi però esiste anche l'altro lato della medaglia, cioè non è che si può avere appunto il fatto che tu entri semplicemente perché sei sotto la protezione, insomma, della diocesi, e poi però ti lamenti perché la diocesi ti impone lo stile di vita che ritiene. È vero quello che dice la CEI, che adesso sono quasi tutti laici. Io ricordo che quando andavo a scuola io erano, cioè, e non ce l'hanno più preti, come a parte che non ce l'hanno più, ma perché si è scoperto, insomma, che c'è gente che si laurea magari in qualsiasi cosa, dopodiché si fa il suo diploma teologia. Fra l'altro vi invito, anche alla luce di quello che abbiamo detto all'inizio sulle difficoltà, no, dei diplomati TFA, e di trovare una collocazione dopo aver fatto, insomma, tutto questo percorso formativo, che si richiede questa abilità pedagogica. Poi è una cosa che prima non vi ho letto, fra parentesi, che è stabilità pedagogica? Ci si rifà ai canoni 804-805 del codice di diritto canonico. Non so che cosa dica, non mi interessa, però capite che l'abilità pedagogica è decisa, insomma, mentre insomma, a livello di concorsi, di abilitazioni eccetera, deve essere, insomma, dimostrata e acquisita, dimostrata e poi acquisita. Qui c'è il diritto canonico, poi insomma a me mi si accappona la pelle a immaginare, anche non voglio nemmeno andare a questioni di cronaca, ma insomma cosa sia questa, però siamo, insomma, tranquilli perché i preti non ci stanno più a fare religione nelle scuole, quindi da questo punto di vista. Su questa storia dell'insegnamento della religione cattolica, a me, visto che siamo a inizio febbraio, sembra importante ribadire da questi microfoni che il nostro invito è a non avvalersi ai genitori che firmano per i figli, ai figli che sono più grandi e alle figlie che scelgono, perché è un assoluto obbrobrio che ci sia un ente esterno che impone il suo insegnamento all'interno della chiesa, della scuola pubblica, perché, ripeto, è un'ora di dottrina cattolica, non è altro. Fra l'altro, purtroppo, insomma, anche proprio nei contenuti, in quell'ora, nella maggior parte dei casi, non si fa leggere i testi, non è che si legge la Bibbia, il Vangelo, che si imparano, che ne so, storie, insomma, di cultura religiosa, ma si parla delle tematiche che su cui la Chiesa vuole entrare in profondità nella società, moltissimo delle tematiche riguardo alla bioetica, per esempio, alle superiori. E quindi è un atto intelligente non avvalersi del e fra l'altro in tutte le scuole, oramai in quasi tutte, insomma, si danno anche alternative sensate alla religione, e se non le danno si possono chiedere, si può far pressione. L'importante è non dare ancora autorevolezza alla Chiesa dentro la scuola pubblica statale, insomma, questo così come invito generale. Se mancassero i posti dove andare a farsi spiegare i legami della nostra società con la civiltà cristiana, eccetera eccetera, non è che, insomma, siamo nell'Unione Sovietica, sempre, no, citata, eccetera. Cioè, in Italia veramente ci sono più chiese che scuole, quasi, no? Sì, ma poi voglio dire, a storia si studia anche la storia della religione e delle chiese, certo. A storia dell'arte non è che si evita di studiare. Ma sai, quando studi, per esempio, soprattutto la storia, tu mi insegni la storia moderna, cioè si intende com'era una volta dalla fine del Medioevo al congresso di Vienna, una volta era così, adesso è diverso. Cioè, te vedevi che era una continua strage in cui, diciamo, la parte del leone la faceva tranquillamente la Chiesa cattolica, ma insomma pure gli altri contribuivano vivacemente. Quindi, insomma, magari, ecco, non so, questi qua potrebbero porre anche qualche problema. Spesso ci sono poi conflitti, forse conflitti è esagerato, ma insomma, quando tu studi scienze e studi, almeno in Italia ancora, il darwinismo, l'evoluzione delle specie non è contestato, e poi fai religione oppure studi storia e certe cose ti vengono dette in un modo, non so, eccetera, e allora lì un pochino te ne accorgi che c'è qualche cosa che non torna. Brevissimamente, andiamo in conclusione. Si citava quella cosa che vi ho letto, quello spot pubblicitario che vi ho letto, che il 10 maggio in Piazza San Pietro ci sarà questa manifestazione contro i tagli della scuola, cioè, capite, a me, fatta a Piazza San Pietro, aspettando la parola illuminante del Papa, che vuoi che dica, la scuola è importante, andate a scuola, eccetera eccetera, e la stanno spacciando come appunto una cosa a tutto campo, quindi non vogliono. Qui c'è anche un altro articolo molto ovviamente tendenzioso che è uscito ieri sempre sull'Avvenire, dove viene chiesto a questo Monsignor Galantino, che era sto vescovo di Cassano allo Ionio e ma è diventato segretario generale, eppure lui c'ha tutte e due le cariche, e gli viene chiesto, vabbè, ma insomma questa è una cosa della scuola cattolica, verrà letta così? No, non è vero, noi siamo in Italia non c'è una scuola cattolica, è una scuola laica, ma esiste la scuola pubblica statale e la scuola pubblica paritaria. Poi, e questo purtroppo è legge dello Stato. Certo, se poi coincide spesso la scuola paritaria, poi pubblica paritaria, questo lo dobbiamo a Berlinguer, infatti. E c'è ancora scritto Ministero della Pubblica Istruzione là sopra, e sotto si legge ancora Ministero della Cultura Popolare, no? Che era la vecchia dizione del periodo fascista, e questa, insomma, è un po' la manovra. Sono scaltri, infatti stanno lì da più di 2000 anni e un motivo ci sarà. E ancora siamo lontani dalle valli di lì, anche se, appunto, con quella manifestazione loro vorranno quello che vogliono sempre, cioè ancora finanziamenti alle scuole private. Prima di chiudere, un altro annuncio, perché ci è sembrata un'iniziativa interessante. Il CESP, cioè Centro Studi per la Scuola Pubblica, ha organizzato un convegno nazionale che è valido come aggiornamento, quindi si può chiedere il giorno sia come docenti che come ATA. La scuola in carcere, i progetti assistiti e la nuova istruzione degli adulti è il titolo, che si terrà venerdì 14 di febbraio, ma l'iscrizione scade il 10 febbraio, quindi sì, poi penso che si possa sul sito dei COBAS, se ce l'ha, insomma, si sì, trova abbastanza facilmente. Sull'home page dei COBAS scuola è riportato ovviamente questo che viene chiamato terzo convegno nazionale sulla scuola in carcere. Si terrà presso la sala teatro della casa circondariale di Rebibbia, e le leggo due righe, insomma, è un convegno che intende dare seguito all'analisi sul ruolo dell'istruzione pubblica all'interno dell'istituzione penitenziaria e poi si cerca insomma di inquadrare questo nel quadro più ampio dell'istruzione degli adulti e delle adulte. Ripeto, trovate tutto sul sito De Cobas Scuola e la richiesta di iscrizione deve essere inviata entro il 10 febbraio. Detto questo, direi che per oggi potremmo anche ritenerci a posto. La sufficienza abbiamo preso. No, questo non lo sappiamo perché ho già telefonato. Vabbè, ce la diamo reciprocamente. Ce la diamo reciprocamente. E l'ora di buco torna martedì prossimo, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, che vi ricordiamo in chiusura, è una radio che vive libera nell'etere dal 77, senza pubblicità, senza padrini, senza padroni. Vi ricordiamo che Scarceranda è qua, se non avete ancora preso la vostra copia, e vi invitiamo ad ascoltare lo spottino che manderò prima della sigla finale ed a partecipare a questa, che è una delle tante iniziative in sottoscrizione di questa radio, che è, come dire, la linfa che permette a questa radio di vivere. Dita mamu kibori, kibori da kibori, tavele schie baktali, devla bak.